fra tre settimane parto per il Guatemala. Sì. Siccome non ho voglia di essere visitato da Montezuma e dai suoi amici, cosa mi consiglia di mettere in valigia? Sono in ottima forma, toccando ferro. Toccando ferro e non solo, direi. Abbiamo disturbi intestinali, sì, che sembrano la cagarella da esame. No, insomma, dai, si può dire, dai. No? Ecco, professor Ma tu, Gasbarrini, così fine e carina. Ma è normale, vero, professore? Dicono che la colica renale è come il parto. Solitamente lo dicono anche gli uomini. Non ho mai capito, professor come Gasbarrini, fanno, come facciano partorito a saperlo, ma. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Riprendiamo subito quello che dicevamo nel nostro fuori onda. Ieri dicevamo che la colica renale è più dolorosa del parto, ma secondo qualcuno il dolore più insopportabile di tutti è quello del mal di denti. È vero, quando andiamo dal dentista sono dolori da cuore denari. Esatto. Però certo, Deborah, che un bel sorriso, denti curati sono un ottimo biglietto da visita. La prevenzione, come si dice, paga, ma si paga. Ma si paga col bancomat o in contanti? Beh, devi dirmelo tu questo, non sei tu la donna di denari. E allora io ti dico che presto il dentista, così come l'avvocato, il notaio, il dermatologo, il commercialista, saranno tutti tenuti a darci la possibilità di pagare con la moneta elettronica, carta o bancomat. 800 24 00 24, raccontateci se vi è già capitato di pagare con il bancomat una visita dal dentista. Bene, raccontateci anche dell'ultima volta che vi siete accomodati sulla poltrona. 349 238 6666. Oggi vi ricorderemo le regole di igiene che sono alla base di una sana prevenzione. Parleremo di carie, otturazioni, impianti e di estetica dentale, nonché di sbiancamento. E allora partiamo. Oggi andiamo dal dentista, ma non solo. Salva Danaio. Per favore, cortesemente, glielo dico cortesemente, può andare un passo dietro la linea gialla e non starci sopra? Non schiacciare la schiena alla linea gialla? Perché la linea gialla soffre. Non le sto chiedendo chissà che cosa, voglio dire, inutile mi guarda con questi occhi da cernia. Forse perché mi vuole cernire il codice segreto. È per quello che va un passo avanti? Allunga questo collo a brontosauro perché mi vuole cernire il codice segreto? È una novità di cui si parla da tempo e che doveva partire il 1 gennaio. All'italiana, come sempre, siamo in ritardo, ma ora sarebbero pronti i decreti attuativi del provvedimento che introduce l'obbligo per i professionisti, e quindi dentisti, avvocati, notai, commercialisti e tanti altri ancora, di dotarsi di POS, cioè l'apparecchiatura che consente ai clienti di pagare con il bancomat per le prestazioni ricevute. Un'altra iniziativa anti-evasione fiscale che è la grande piaga del nostro paese. Però in realtà, Deborah, e molti già lo fanno. Allora stamattina andremo a capire le novità di questa legge, ma soprattutto cercheremo di capire se i professionisti si stanno attrezzando nei loro studi per dare questa possibilità ai clienti. Li invitiamo a chiamarci e a raccontarci a che punto sono, anche se devo dire che in molti guardano con sospetto a questo obbligo e dicono è un nuovo regalo alle banche e ai circuiti internazionali di pagamento. Arriverà sicuramente un SMS, forse dal nostro fante di picca. Chissà. E comunque i professionisti che devono adeguarsi a questa nuova disciplina sono tanti. Da alcuni ci andiamo poche volte nella vita e con alcuni potremmo non averci mai a che fare. Ce n'è invece uno che prima o poi tocca a tutti incontrare. Anzi, potremmo dirlo che frequentarlo con regolarità diventa un investimento alla cuore denari, perché la prevenzione costa, però alla fine rende. E invece non costano proprio nulla i consigli dei nostri esperti, per cui cominciate subito a chiamarci, già in tanti lo state facendo, all'800 24 00 24. Il primo saluto va a Nicola Forte, tributarista esperto di questioni fiscali per Il Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno Nicoletta, un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie, è pronto? Si è attrezzato? Ha messo il POS? Da lei si può quindi pagare con il bancomat? Ma io aspetto di vedere il decreto, perché il decreto dovrebbe poi prevedere l'obbligo, o meglio l'entrata in vigore dell'obbligo, differita in maniera graduale. Si è detto un po' tutto il contrario di tutto, si è detto che bisogna fare riferimento all'ammontare delle entrate perché scatti l'obbligo, quindi cerchiamo prima di completare tutte quelle che sono le disposizioni, poi capiremo esattamente chi riguarderà. Ecco, lei l'ha già detto parzialmente, il Ministero dello Sviluppo Economico sta predisponendo i decreti attuativi di questo provvedimento che è stato varato un anno e mezzo fa, nel 2012, che ha introdotto questo obbligo. Come mai tutto questo tempo forte? Come mai la normativa ancora non è operativa? C'è qualche ordine professionale? Poi magari avremo modo di parlarne nella puntata che si è messo di traverso. Ci fa qualche esempio? Mi risultano che alcuni ordini professionali abbiano sostenuto che in realtà la nuova norma rappresenti, quindi l'obbligo di installare il POS, una facoltà. Beh, in realtà qualche considerazione va fatta, perché non c'è, o sembra non ci sia, un obbligo in sé di installare il POS. C'è obbligo di accettare come mezzo di pagamento l'utilizzo appunto del bancomat, qualora il cliente ne faccia richiesta. Quindi in realtà, fin quando il cliente non viene da me e dice io voglio pagare con bancomat, in realtà io non ho un obbligo preventivo. Certo, mi devo far trovare pronto. Certo. Ecco, quindi bisogna un po' però capire. Però se io vengo da lei le dirò voglio pagare con il bancomat. È forte, come la mettiamo? Bisogna trovare. Lei cosa mi dice? Diciamo, secondo me il rapporto con i professionisti è di tipo fiduciario, nel senso che se il rapporto è più che buono, io non ho alcun problema a dire al mio cliente guarda, fai il pagamento con calma, non c'è bisogno che mi paghi oggi, mi fai tranquillamente un bonifico. Certo, ecco, se lui insiste sono obbligato, però in realtà può cambiare idea. Allora, quali esempi possiamo fare per far capire un po' quello che potrebbe cambiare ai nostri ascoltatori? Abbiamo parlato della sua attività forte, quindi consulente nell'ambito tributario, ma ecco, questo potrebbe succedere dal notaio. Una volta stipulato un rogito, la prestazione professionale di questo professionista appunto potrebbe essere pagata non più con un assegno, perché lì la cifra che va lasciata per questa operazione è piuttosto alta, oppure, non lo so, la dichiarazione dei redditi dal commercialista. Dal dentista come la mettiamo? Allora, dal dentista vale anche per gli altri come per gli altri professionisti, anzi possiamo pensare soprattutto a alcune tipologie di prestazioni, posso immaginare l'igiene dentale, che in realtà non hanno costi così elevati, dove in effetti il dentista potrebbe sentirsi chiedere questa richiesta. Ecco, per il notaio va fatto un discorso un po' a parte, perché la legge di stabilità con riferimento alle compravendite immobiliari, anche qui mancano le disposizioni di attuazione. Certo, con calma, dovrà, naturalmente prendiamo. No, prevede l'obbligo di istituire un conto dedicato per le attività di compravendita a garanzia delle parti, quindi abbiamo delle norme che si sovrappongono alle altre norme e andranno coordinate. Però forte, se io non ricordo male, adesso in realtà la questione del conto dedicato va a disciplinare la questione della somma che va a pagare l'immobile, non la prestazione professionale del notaio. No, assolutamente, andrà tutto su quel tutto conto lì. Onorari e la cifra pattuita per il valore dell'immobile che è oggetto della compravendita. Assolutamente, quindi. Assolutamente. E insomma, siamo ancora in un ginepraio, come noi, al solito. Nicola Forte, dobbiamo tenercelo sempre qua. Lo adottiamo? Sì. Va bene. È contento? No, non lo sa se è contento o no. Infatti, poi guarda, è un po' furbetto, perché lui si candida molto spesso per aiutarci a capire certe situazioni, lo trascuriamo anche fin troppo, poi però siccome oggi l'abbiamo pescato senza posti in ufficio, Forte, no, sto scherzando naturalmente, no, certo, la norma ha ragione Forte, che qua molto spesso si legifera nel nostro paese, poi prima di applicare e dare vita ai decreti, le misure attuative di questi provvedimenti, passano anni e tutti i professionisti sono, come dire, un po' nella confusione, giustamente. Però bancomat o non bancomat, ci sono famiglie che da questa possibilità non trarranno alcun beneficio. Mi riferisco ad esempio al dentista. Ci sono famiglie che dal dentista proprio non ci vanno o hanno interrotto le cure perché la crisi, come abbiamo detto, ci ha tolto il sorriso. E in linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Gianfranco Prada, presidente nazionale ANDI, che ci racconta dei dati di una ricerca molto interessante svolta dall'ANDI. Buongiorno dottor Prada, benvenuto. Buongiorno a voi. Sì, la nostra ricerca, elaborata tra l'altro su dati Istat, ha dimostrato che la riduzione della spesa per le cure odontoiatriche delle famiglie italiane dal 2007 ad oggi è superiore al 30%, quindi le famiglie hanno sempre meno risorse e fanno sacrifici, soprattutto in ambito odontoiatrico, rinunciando a prestazioni essenziali, nostro modo di vedere. Tant'è che la crisi ha riportato anche in auge prestazioni che prima erano quasi tramontate, come le protesi mobili e le dentiere, perché adesso ci si reca dal dentista essenzialmente per le urgenze, cioè quando c'è effettivamente il dolore, quindi non si può rinunciare a intervenire, oppure per tamponare le situazioni. Non si programmano più gli interventi più complessi, che per la riabilitazione completa della bocca, che hanno un costo purtroppo notevole, su questo non ci sono dubbi, certo. E quindi poi si arriva al punto tale che, mancando denti e dovendo comunque masticare, si ricorre ancora alle tradizionali protesi, che hanno comunque una funzione assolutamente nobile, perché permettono comunque la masticazione e l'estetica, ma non hanno certo quella qualità di cure più complesse che purtroppo adesso potrebbero avere. La situazione non si possono più effettuare. Dottor Prada, però a farne le spese sono anche i piccoli. Secondo i vostri dati, una famiglia su tre non porta più i figli a farsi controllare i denti. Tutti sappiamo bene che negli anni proprio dell'infanzia, ancora quando ci sono i dentini da latte, ecco, si mettono proprio le basi per una bocca sana. Quindi se saltiamo questo momento così delicato e importante per la prevenzione, molto probabilmente avremo adolescenti e adulti con una situazione, uno stato della bocca generale un po' compromesso. Dottore. Certo, anche qui abbiamo dei dati tra l'altro assolutamente obiettivi, perché sono dati su ricerche dell'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, che hanno detto che in Italia prima di tutto c'è stato un grosso miglioramento della salute orale nei bambini, portando il famoso indice di MFT da 6 a 1 negli anni scorsi, ma adesso questo sta invece peggiorando, si sta tornando indietro, questo proprio per questo discorso di non effettuare visite periodiche, di non fare quelle cure preventive che consentono la conservazione degli elementi dentari fin dai denti da latte, perché trascurando quello poi c'è la possibilità naturalmente che la bocca non cresca nel modo corretto, ci sia poi necessità di intervenire con apparecchi ortodontici che sono più costosi eccetera, e poi dopo se ne pagano le conseguenze naturalmente col crescere e con diventare adulti con situazioni molto più complesse da riabilitare. L'invito mio è quello di rinunciare naturalmente a qualcosa di più superfluo che nelle nostre scelte di vita quotidiana spesso facciamo, ma non rinunciare, soprattutto per quanto riguarda i bambini, a questa operazione fondamentale di prevenzione, che è quella della visita odontoiatrica periodica e della intercettazione all'inizio di qualsiasi problema. Dovendo scegliere, dottor Prada, una dentierina per l'adulto ma una cura preventiva per il bambino, cioè investiamo sui giovani, se dovessimo fare una scelta? Sicuramente la scelta deve essere investire più sui bambini piuttosto, certo. Però cerchiamo di non arrivare al momento di mettere la dentiera. Dover mettere la dentiera. Certo. Dottore, ripeto, si possono fare delle scelte rinunciando a beni che sono meno essenziali rispetto a quello della salute. A proposito di scelte che molti hanno preso a fare negli ultimi anni, dottor Prada, non appena abbiamo lanciato il tema della trasmissione di questa mattina, il primo SMS che ci è arrivato di un ascoltatore ha questo contenuto: ho risolto il problema andando a Zagabria. E appunto in molti hanno deciso negli ultimi anni di risolvere i problemi della loro bocca andando all'estero, anche se il fenomeno, non so se dire per fortuna o meno, appunto in quest'ultimo periodo registra una flessione, molto contestato ovviamente da voi, perché non si capisce dove si vada, e soprattutto poi quando queste persone che si sono curate all'estero rientrano in Italia, i problemi sono dei dentisti italiani. Assolutamente d'accordo, e anche qui le posso dare dei dati oggettivi per una ricerca condotta dall'ISPO del professor Mannheimer, che ha detto che meno del 4% si sono recati all'estero per fare cure odontoiatriche, e di questo 4% più della metà non ci tornerebbe perché è stato assolutamente insoddisfatto da quello che ha ricevuto. E questo perché? Perché all'estero si concentrano troppo i tempi in cui vengono effettuate la cura, non si sa naturalmente chi è l'odontoiatra curante, quindi manca quel rapporto di fiducia essenziale che ci deve instaurarsi tra medico e paziente, e soprattutto poi in caso di qualsiasi problema successivo bisogna tornare là, le oppure garanzie non ci sono sostanzialmente, intraprendere eventuali azioni legali è praticamente impossibile, e quindi si rivolge poi al dentista italiano di fiducia, che deve rimettere in sesto situazioni spesso complesse e complicate ulteriormente da cure effettuate senza i giusti passaggi. Senta, dottore, lei ha parlato di tempi, no? Io vorrei chiederle due domande. La prima: se una persona decidesse comunque di farsi curare all'estero, quali garanzie deve chiedere? Riesce a farci una sorta di vademecum? Non è così semplice, però ci sono alcuni aspetti fondamentali da considerare. Prima di tutto, quando si fanno interventi complessi, sono quelli per cui ci si rivolge in genere all'estero perché consentono un maggior risparmio rispetto a quelli italiani, bisogna avere la garanzia dei prodotti che si sono utilizzati, quindi farsi dare le certificazioni CE dei materiali e soprattutto degli impianti, perché sono questi quelli che, ecco. Poi naturalmente controllare, verificare bene che lo studio sia uno studio qualificato dal punto di vista anche della sterilizzazione, del rispetto dei parametri di igiene. Quindi ecco, dove deve cadere l'occhio? Mi faccia una panoramica dello studio del dentista. Esattamente come si fa la bocca, facciamo la panoramica dello guanti, studio. Il dentista deve avere prima i guanti. Di tutto, sempre assolutamente i guanti, la mascherina, gli occhiali protettivi. Naturalmente gli strumenti che vengono utilizzati devono essere presi da pacchi che sono stati sterilizzati. Quindi deve aprirceli sotto gli occhi praticamente. Assolutamente sì, quindi devono essere aperti nel momento della cura, quando il paziente è presente, e questo garantisce che appunto lo strumento sia sterile. E poi naturalmente, ecco, ci deve essere anche, come dicevo prima, una giusta tempistica nel fare le prestazioni, perché è inutile promettere miracoli che in una settimana si risolvono tutti i problemi di una bocca, perché questo biologicamente non è rispettare i tempi. Però, dottor Prada, lei aveva già accennato al concetto dei tempi, il tempi di recupero della bocca, ma questo concetto va applicato quindi anche per le cliniche che sono sorte in questi anni anche in Italia, che promettono la, possiamo dire, remise en forme, non va bene, ma insomma ci restituiscono il sorriso in tempi brevissimi, 24-48 ore addirittura. Allora, adesso c'è la possibilità di la cosiddetta implantologia a carico immediato, cioè appena fatti gli impianti si possono mettere dei denti provvisori, però ci devono essere tutta una serie di condizioni perché questo venga realizzato. Prima di tutto non è pensabile di andare a fare le estrazioni, mettere gli impianti, mettere i denti e quelli siano definitivi, perché questo è assolutamente illogico e irrispettoso, come dicevo, dei tempi biologici di guarigione, e creerà sicuramente problemi nel futuro. Se invece si parte da una situazione in cui ad esempio non ci sono più denti, c'è la possibilità di fare anche un intervento rapido, ma di tipo provvisorio, non di tipo definitivo, e quindi dare già un sorriso in pochi giorni. Però si deve partire già da una bocca sana, senza più denti. Un sorriso provvisorio, insomma. Esattamente sì, esattamente sì. Dottore, un altro messaggio di un altro ascoltatore. Anziché fare le snob, dice questo ascoltatore rivolgendosi a noi, che non ne abbiamo minimamente, neanche lontanamente l'atteggiamento, esiste anche il servizio sanitario pubblico. A questo proposito, in Italia ci avevamo già pensato, caro ascoltatore, infatti, grazie comunque del suggerimento. Sappiamo però, insomma, quanto dobbiamo aspettare prima di avere magari un primo contatto con un medico a questo livello. In Italia il 90-95% dell'assistenza odontoiatrica è garantita da studi privati, perché difficilmente le strutture pubbliche riescono ad arginare un aumento molto consistente della domanda. I dentisti in strutture pubbliche sono soltanto 3.500. Cosa propone l'Andi per arginare una crisi di questo tipo del settore pubblico? Cosa pensate di fare? Ci sono delle buone notizie per farci tornare il sorriso e farlo tornare soprattutto a quelle persone che comunque, dottore, lo studio privato non se lo possono permettere, e purtroppo queste persone sono in aumento. Sì, allora un commento sulla situazione del servizio pubblico. In Italia è sempre stata fatta la scelta politica, proprio per i costi che ha l'odontoiatria, di escluderla dai LEA e quindi di non assicurarla a tutti i cittadini. Tant'è che adesso appunto gli odontoiatri che lavorano nel servizio sono quelli che lei ha citato, addirittura i riunici, cioè le poltrone odontoiatri del servizio pubblico lavorano una media di 3 ore al giorno, quindi non sono neanche sfruttate appieno quelle opportunità che ci potrebbero essere per coprire perlomeno quei cittadini che hanno proprio quelle difficoltà economiche estreme e non possono assolutamente rivolgersi al privato. Noi per cercare di risolvere, incentivare un po' con le cure, abbiamo prima di tutto sottoscritto col Ministero della Salute un accordo che si chiama di odontoiatria sociale, che garantisce a prezzi calmierati alle persone che hanno più difficoltà economiche, con un reddito ISEE molto basso, cioè al di sotto degli 8.000 euro, delle prestazioni appunto a tariffe calmierate a queste persone. In secondo luogo, quello che chiediamo alla politica come associazione è quello di rendere più aumentare il tetto di detraibilità delle prestazioni odontoiatriche, perché ci sembra illogico che una cura odontoiatrica possa essere poi detratta al 19%, mentre ad esempio la ristrutturazione della casa, l'acquisto di mobili della cucina al 50%. Qui si ritorna a quella scelta nella priorità dei valori che dicevo, accennavo prima, che dovrebbe essere colta anche dalla politica. Da parte nostra noi cerchiamo di andare incontro il più possibile ai pazienti, cercando di aiutarli anche nelle forme di pagamento, facendo finanziamenti, essendo estremamente flessibili, e questo è grazie a quel rapporto di fiducia che dicevo prima, è fondamentale, che si deve instaurare tra paziente e odontoiatra curante, e che è quello che poi ha garantito sempre la qualità dell'odontoiatria italiana in questi anni. Quindi allora, se siamo in difficoltà economiche però abbiamo una necessità di andarci a fare appunto un controllo della nostra bocca, magari abbiamo una carie insopportabile, dottore, possiamo provare a chiedere al nostro medico se ha aderito a questo, al nostro dentista, se ha aderito a questo protocollo con il Ministero della Salute, e provare a chiedere se ci fa una tariffa un po' più contenuta, giusto? Assolutamente, certo. Ottimo. Agevolata. Grazie, ecco. Allora al dottor Gianfranco Prada, presidente nazionale ANDI, Associazione Nazionale Dentisti Italiani. Buona giornata. Grazie, a presto. Grazie. Volevo solo ricordare dell'iniziativa di Altro Consumo, della quale parleremo dopo le 12, che ha realizzato qualche mese fa un'indagine che si chiama Quanto costa un sorriso sano? Sono stati calcolati i costi medi in 6 città italiane delle cure più ricorrenti, poi ci faremo raccontare dopo le 12 che cosa è stato scoperto. Ma per farci fare un preventivo occorre aprire la bocca e non a vanvera. Non a vanvera. E allora, dato che noi non possiamo vedervi, vi invitiamo a rispondere a queste domande. Intanto qua in studio con noi, pronta a raccogliere i vostri dubbi, ma soprattutto a darvi delle indicazioni alla Cuore Denari, cioè capaci di giocare con la prevenzione, investire in prevenzione, quindi in salute, ma rispettando anche un po' il nostro portafoglio, è tornata a trovarci la dottoressa Alessandra Rigoni, medico chirurgo specialista in odontoiatria e ortodonzia a Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno e benvenuta. Che oltre a essere brava è anche bella. È anche molto bella. Infatti Filippa Oreggio ha visto che era molto contento. L'occhio assassino. Non distraiamoci. No. 800 24 00 24, numero verde per continuare i vostri interventi. Tra poco sentiremo Maurizio da Fermo, Enea da Terni, Antonio da Napoli. Abbiamo la scheda con il nostro ABC? ABC, sentite, rispondete e chiamate. Se mangi o bevi qualcosa di caldo o di freddo, i tuoi denti protestano? Quando lo spazzolino accarezza le tue gengive, loro come reagiscono? Chiudi la bocca. Ti sembra che qualche dente sia più lungo di altri? Tra i denti noti spazi che prima non c'erano? E dimmi la verità, sorridi volentieri o sei in imbarazzo a mostrare i denti? Allora, 800 24 00 24, rispondete. Prima di andare ai mercati, vogliamo sentire un ascoltatore? Certamente, hanno la precedenza assolutamente su tutto. Vai. Scegliamo. Ne prendiamo due, guarda, proprio oggi non badiamo a spese. Prendiamo un ascoltatore che ci fa una domanda sul tema dal quale siamo partite, il tema del pagamento con la moneta elettronica per le prestazioni dei consulenti ai quali ci rivolgiamo, e poi chi ci fa una domanda anche sul tema della cure dentali. Maurizio da Fermo, deve essere telegrafico. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Io sono un telegrafo, purtroppo io sono un evasore, perché tutte le volte che vado alla dentista, anche cambiando vari dentisti, quando c'è da pagare dico 100 euro più IVA. E questo con l'IVA così alta, 23 euro in più, dico pago con Bancomat, no con Bancomat non funziona. tutti ecco, quanti allora a fermo. Non mi fa fare una bella figura alle Marche, Maurizio, qua, che qua tutti i dentisti fanno i furbetti. Ma com'è sta storia? No, no, è vero, bisogna però dire la conosciamo sta situazione. Bisogna dire la verità. In questo modo sono costretto, non costretto, ma mi conviene, certo, perché non posso detrarre le spese. Altro problema grosso, è vero, che le detrazioni ecco, sono ridicoli. E poi, un'altra cosa telegraficamente, c'è l'università idontoiatria, ma non c'è poi l'ASL che io mi posso rivolgere, sono costretto ad andare dai privati. Sì, che abbiamo detto, che abbiamo già detto, che il 90-95% dell'assistenza odontoiatrica è proprio garantita dagli studi privati. Fieno in cascina, sentiamo anche che cosa ci permette di commentare Antonio da Napoli. Ecco che è caduto, mannaggia. È caduto. Però la domanda la facciamo lo stesso perché l'avevo letta, voleva sapere se è vero che gli odontoiatri sconsigliano un impianto ai fumatori. Dottoressa Rigoli. Il problema dei fumatori è un po' annoso per noi dentisti, perché la guarigione della mucosa dopo che si sono fatti questi interventi è più difficile, spesso dà anche degli insuccessi non indifferenti. Quindi di solito facciamo firmare come una liberatoria per quei pazienti che sono un po' cocciuti e non vogliono scendere al di sotto delle 10 sigarette al giorno. Quindi il patto di come dire, alleanza tra il dentista e il paziente è la collaborazione. E magari andando dal dentista uno smette anche di fumare. Sì, o comunque diminuire. Noi non chiediamo l'impossibile, perché un fumatore che fuma magari da 40 anni non potrà mai smettere definitivamente. Dall'oggi al domani, certo. E questo non magari si può non è chiedere. Detto però. No, deve essere seguito, aiutato, deve avere una motivazione molto forte e il dentista può aiutarlo certamente, ma queste motivazioni devono venire da dentro. Quindi attenzione, il nostro ascoltatore suggerisce uno spunto di riflessione interessante. Prima sul fumo e poi sul impianto. Fumo e impianti non vanno d'accordo. No, vanno d'accordo se il paziente cala di molto il suo numero di sigarette fumate, cioè al di sotto delle 10, tra le 5 e le 7, qualche una certa possibilità di risultato maggiore l'abbiamo. Andiamo a sentire i mercati, Deborah. Sì, li faccio telegrafici. Dai. Perché abbiamo una marea di telefonate, tra poco. Sono alle scuole elementari, Enrico, fermi! Fermi! Che devo fare, Simona? Fai dire a un bambino l'offerta Citroën, magari la fa meglio di te. Ma non sanno neanche leggere. Bambina, sai leggere qui? Sì. A gennaio, nuova Citroën C3 5 porte da 9.490 euro. Tua a 99 euro al mese. E dopo due anni sei libero di sostituirla, tenerla o restituirla. TAN 3,99%, TAIG 8,39%. Info su citroen.it, anche domenica 26. Brava! Sì, vabbè, è di quinta. L'ho fatto per respirare aria più pulita. L'ho fatto per il risparmio energetico. L'ho fatto per il futuro dei miei figli. L'ho fatto anche per l'ambiente. Oggi, ristrutturare la casa è una grande opportunità. Gli incentivi fiscali continuano e Mediolanum ti dà un aiuto in più. Un mutuo di ristrutturazione a un tasso davvero vantaggioso. Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Messaggio pubblicitario, condizioni sui fogli informativi su bancamediolanum.it. Offerta valida fino al 31/3/2014 e soggetta a valutazione della banca. Borse in diretta. Borse positive in questo momento, anzi contrastate in Europa. Dopo una buona partenza, i listini del vecchio continente hanno tutti ridotto i loro rialzi. Adesso per Milano più 0,24%, in partenza più 0,7%, negativa Francoforte meno 0,18%, sulla parità Londra, Parigi più 0,04%. Corre ancora Finmeccanica a Milano, ufficialmente aperto il dossier cessioni di Ansaldo STS Ansaldo Breda. Sulla base delle dichiarazioni di ieri dell'amministratore delegato Alessandro Panza, il titolo corre anche oggi di 3 punti percentuali. Enel più 2,30% dopo la promozione di Barclays, Ansaldo STS più 2. In discesa oggi Yux meno 2,50%, Saipem meno 2,43%. A tra poco con Cuore Denari. Cuore e Denari. Ci siamo accomodati sulla sedia del dentista e presto lui, così come l'avvocato, il notaio, il dermatologo, il commercialista, la lista è molto lunga, saranno tenuti a darci la possibilità di pagare con la moneta elettronica, carta o bancomat. Allora 800 24 00 24 il numero verde per le vostre telefonate, raccontateci se vi è già capitato di pagare con il bancomat una visita dal dentista e non solo. E continuate a raccontarci anche dell'ultima volta che vi siete accomodati sulla sua poltrona. 800 24 00 24, potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Se non vi ricordate o non vedete un dentista da tempo, mi auguro che abbiate risposto al nostro questionario. L'abbiamo sentito prima, vogliamo risentirlo rapidamente, Filippo? Tra poco lo risentiremo nel corso della nostra trasmissione. C'è? È magnifico, Filippo Moretti. Cioè, così, vedi? Mica fa il cioccolataio lui, fa il regista. Vai. Se mangi o bevi qualcosa di caldo o di freddo, i tuoi denti protestano? Quando lo spazzolino accarezza le tue gengive, loro come reagiscono? Chiudi la bocca. Ti sembra che qualche dente sia più lungo di altri? Tra i denti noti spazi che prima non c'erano? E dimmi la verità, sorridi volentieri o sei in imbarazzo a mostrare i denti? Il nostro Nicola Forte è ancora in linea con noi, quindi pronto a rispondere a tutte le vostre domande. Ci siamo. Avevamo anche il commento di Maurizio da Fermo. Forte, probabilmente un'obiezione quella che ha fatto l'ascoltatore, che è molto ricorrente, non c'è nuova, no? Io vado dal dentista così come da un altro professionista, chiedo di pagare con la moneta elettronica e là track scattano tutte, non solo le commissioni, ma chiaramente il professionista dice io ho l'IVA o tante altre cose, per cui se non paghi con questo strumento il prezzo è diverso. Eh sì, questo è il problema del cosiddetto conflitto di interessi, anche se poi dobbiamo ricordare nel caso dell'ascoltatore che le prestazioni sanitarie, quindi nello specifico quelle rese dai dentisti, non sono assoggettate ad IVA, sono esenti anche in considerazione della finalità sociale. Certo, il problema rimane per tutti gli altri. Il nostro sistema di detrazioni, poi se ne è parlato molto anche in questi giorni, a proposito di tagli alle detrazioni, il governo che per fortuna pare non si faranno, però il problema di fondo è che le detrazioni sono particolarmente limitate, esigue il 19% con una parte addirittura non detraibile. E si discute molto se aumentare queste percentuali di detrazione in qualche modo può incentivare l'utente, il beneficiario finale della prestazione, il cliente, a non aderire insomma a queste richieste che alcune volte ci sono, altre volte no. Tra l'altro Forte, si prepari, ne parleremo nel corso della trasmissione, perché ci sono anche alcune categorie professionali che non abbiamo citato questa mattina nell'elenco che abbiamo fatto tra coloro che dovranno dotarsi appunto di POS. Continuiamo ad insistere sul notaio, il commercialista, il dentista, un'altra professionalità medica, ma per esempio c'è Massimo, un amico del nostro programma, che è un consulente finanziario indipendente, che vuole sapere se pure sarà obbligato in futuro a questa novità. Quindi non avete che da chiamarci se avete dei dubbi all'800 24 00 24. Intanto aprite la bocca. Essere e benessere. Sto correndo molto veloce, ho mal di denti, un male atroce. Dottoressa Rigoni, una cosa che spesso dimentichiamo è che lo stato di salute della nostra bocca ha un ruolo fondamentale per lo stato di salute generale del nostro organismo. Assolutamente. Non è solo una questione di bellezza o di sorriso. No. Innanzitutto bisogna pensare che la deglutizione, la masticazione, la fonazione passano tutte da un rapporto corretto di quelli che sono i denti e la nostra occlusione. Poi la cura anche delle mucose orali è fondamentale. Purtroppo sono in grande incremento i tumori della bocca, perché mix alcol e fumo aggravano le probabilità e le aumentano di insorgenza di tumori, soprattutto nei ragazzi giovani che abusano appunto di queste sostanze. Quindi c'è anche un certo allarme presso la nostra categoria. E poi la masticazione è fondamentale per una buona digestione, e da non sottovalutare assolutamente il problema batterico. Tutti quei batteri che in bocca proliferano quando non ci si lava bene i denti possono dare dei coinvolgimenti a livello cardiaco, a livello renale, e quindi bisogna fare una buona prevenzione, soprattutto le persone che hanno avuto problemi cardiaci, che sono in aumento perché la popolazione media ha un'età molto più alta rispetto a prima, quindi bisogna fare prevenzione, ed è questa forse la soluzione che noi possiamo trovare in questo momento di crisi. Non bisogna dimenticare che il 90% delle persone che sono state intervistate dopo visite dal dentista si sono dichiarate soddisfatte in Italia, quindi questa è una percentuale altissima, tra le più alte in Europa, e posso dire con un certo orgoglio che noi siamo forse una delle categorie più avanzate a livello mondiale nel privato, cioè i dentisti privati sono quelli che oggigiorno in Italia possono vantarsi di aver raggiunto degli ottimi livelli anche di educazione dei propri pazienti. Devo dire che oggettivamente lo riconoscono anche gli ascoltatori che ci stanno scrivendo sulla qualità delle prestazioni dei professionisti italiani, sì, in questo campo. Sì. Ecco, è importante quindi lavorare sulla prevenzione, e io direi ai nostri ascoltatori che oggi proveremo a farci dare delle indicazioni dalla dottoressa Rigoni, partendo proprio dalle loro domande, dai dubbi e segnali che possono essere così, tante volte essere così banali, così quotidiani da non attirare la nostra attenzione. Penso alle gengive, quante volte passando il filo interdentale abbiamo visto che la gengiva sanguina, oppure la sensibilità del dente, a volte mangiamo qualche cosa di caldo, di freddo, lo avvertiamo, ma rimandiamo. Oppure ancora la dottoressa Rigoni faceva riferimento da un aumento dei tumori della bocca, attenzione, afte, le trascuriamo, le lasciamo lì, fanno male, poi dopo un po' di tempo passano, attenzione, perché se non passano è il momento di farci dare un'occhiata dal nostro dentista. Di prassi, tutto quello che in bocca non scompare dopo due o tre settimane al massimo va fatto vedere dal dentista. Ecco, perché non i denti naturalmente. I denti devono rimanere più a lungo possibile. I denti devono rimanere per sempre, la si spera. Battutona. Sì, e quindi tutto quello che non scompare in 2 o 3 settimane, qualsiasi lesione, formazione di colore strano, rosso, bianco che sia, va fatto vedere dal dentista, mai sottovalutare. E una cosa buona da fare è almeno una volta ogni 2 settimane un'ispezione del cavo orale. Noi facciamo l'autopalpazione per quanto riguarda i nostri il seno, anche a livello dei genitali maschili ormai ai ragazzini viene insegnata la palpazione per una prevenzione precoce di eventuali tumori, altrettanto va fatto per la bocca. Ogni 2 o 3 settimane un'occhiatina in bocca mentre ci si lava i denti, si ispezionano le mucose interne, all'interno del labbro, anche sul palato, e in modo tale da tenere sotto controllo la situazione. Il primo medico del paziente è il paziente stesso. Logico, questo nasce anche da un buon rapporto con il dentista, col terapeuta che deve aiutare. Con cui dobbiamo avere un rapporto di assoluta fiducia. Andiamo a sentire i nostri ascoltatori che hanno fiducia in noi e che fare ci chiamano. Una domanda alla dottoressa, se ha il bancomat, il POS in studio. Io ce l'ho da un po' di anni, perché secondo me bisogna aiutarsi a vicenda, nel senso che si può fare una medicina di qualità solo se si riesce a essere chiari nel rapporto e aiutare anche il paziente, perché non dimentichiamoci che si lavora anche per guadagnare, ma è un lavoro che deve essere seguito da una forte passione. E soprattutto adesso, in un momento di crisi dove tanti pazienti a causa di questi grossi problemi economici sono affetti magari da depressioni, da situazioni di umore assolutamente negativo, certo. Anche il dentista, che dopo il medico generico è la persona che vede più spesso i propri pazienti, ha anche una certa funzione di supporto e di sostegno umano nei confronti di queste persone. Siamo ancora medici, ecco, non siamo solo tecnici. Mi piace per cui, insomma, questa anche cosa per questo qua. Motivo non avete avuto nessun problema, non è un onere insopportabile. No, per voi no, avere la strumentazione, l'apparecchiatura. E a riguardo alla questione che diceva prima il signore, non dico di cambiare medico, però dico magari di parlare con chiarezza al proprio dentista per non arrivare a certe bassezze, anche perché ormai l'80% dei colleghi, come io stessa, abbiamo tutto al computer. Quindi mi sembra anche un pochino difficile, se non impossibile, un'evasione, perché abbiamo tutto registrato, quindi quello è. Tante volte però penso che veramente la situazione della Lombardia o di Milano siano un po' distanti da quello che accade in altre zone. È triste, però questo è quello che si verifica. Io ti porto a Bolzano, vediamo che cosa succede a Bolzano. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Eccoci qua. Ecco, io mi sono seduto sulla poltrona del dentista proprio settimana scorsa e proprio volevo confermare che il mio dentista accetta il banco, ma la carta di credito addirittura. E quando mi ha poi presentato il preventivo, lui stesso mi ha detto: guarda, questa qua è la fattura completa, perché le prestazioni sanitarie non sono esenti IVA, sì, per cui questo è l'importo che pagherai, non c'è IVA, non c'è nulla. L'importo finale. Ecco, per cui questa è la realtà di Bolzano. Certo. Un'altra cosa che voglio dire, con una punta di veleno, nonostante le critiche di Vespa, il welfare in provincia di Bolzano va bene, perché i dentisti addirittura dicono quello che si riesce a recuperare come contributo provinciale sulle prestazioni. Adesso ci abbiamo fatto un commento sul quale noi non possiamo replicare, perché non so cosa abbia detto Bruno Vespa su Bolzano. Detto questo, però, insomma, sulla qualità della vita e probabilmente anche delle prestazioni assistenziali, sanitarie, non solo di quest'area, la qualità è riconosciuta anche dall'indagine del Sole 24 Ore, di cui abbiamo parlato, a cuore denari. splendidi dolci, straordinari dolci a Bolzano, come d'altronde a Torino, quindi si laveranno molto i denti. Esatto. Ci chiama da Terni, e poi abbiamo Maurizio, e poi abbiamo Pietro, ma noi dobbiamo fermarci e andare sulle strade. Ma andiamo. Scendiamo. Cuore e denari. All'inizio non dovevo andare all'università, dovevo diventare igienista dentale come mia sorella Beverly, e io ho profondo rispetto per denti e gengive, in particolare per le gengive. Tutta la mia famiglia lavora nei denti. Che cosa stai fissando? Hai uno smalto bianchissimo. Grazie. Dottoressa Rigoni, eccoci qua. Ma quando il filo interdentale fa sanguinare le gengive, perché lo usiamo male o le nostre gengive sono infiammate? Bisogna distinguere. A volte si è un po' troppo violenti nell'utilizzo del filo. Io consiglio più quello cerato, perché arreca meno danni quando viene usato con un po' di baldanza. Però quando le gengive sanguinano, quasi sempre c'è del tartaro sotto gengiva, quindi che va rimosso. Oppure ci sono situazioni particolari durante il periodo mestruale, nelle donne le mucose sono più arrossate, sono più gonfie, è normale, tutte le mucose interne sono più edematose per una questione proprio ormonale. Quindi in quelle situazioni ci può essere un po' più di fragilità della mucosa. Ma questa proprio non la sapevo. Vedi? Ma sì. quante ce ne succedono anche in quei giorni, Nicoletta? Sì. Ma c'è una tragedia. Anche in gravidanza, per esempio, ci sono queste manifestazioni, per cui non bisogna preoccuparsi, basta una visita veloce dal dentista che possa dare poi delle indicazioni corrette. Parleremo anche di colluttori, di dentifrici, insomma spazzolino, colluttorio, dentifricio, filo interdentale sono un po' i cavalieri della nostra igiene. Noi dobbiamo partire da qui, ci auguro che partiate anche voi ci portiate anche voi con le vostre domande a parlarne all'800 24 00 24. Deborah, vai. Allora, adesso noi siamo seduti sulla sedia del dentista, ma non sarà solo il dentista a dover mettere a disposizione dei propri clienti appunto il pagamento tramite carte o Bancomat. Ne parliamo con Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, che saluto. Presidente, buongiorno e ben buongiorno. Ritrovato nel nostro programma. Buongiorno. Allora, le faccio sentire quello che chiede Enea da Terni, poi con lei commentiamo in termini più generali la questione. Enea, buongiorno. Buongiorno. Lei è un geometra. Grazie. Sì. Io mi chiedevo se l'obbligatorietà del POS è solo per piccoli importi, perché diciamo le carte di credito normalmente, io ne ho un paio, hanno dei limiti di utilizzo. Uno non ha la carta diamante, ma 1500 euro mediamente hanno, quindi spesso le parcelle sono magari di importi maggiori, e poi magari verso fine mese la disponibilità della carta residua magari sono 300 certo. euro, uno va a pagare, deve pagare una parcella di 800 euro, un accatastamento 1000 euro, 2000 euro, quindi volevo sapere se è obbligatorio solo per piccoli importi oppure è obbligatorio comunque. Grazie Enea. È uno strumento inutile, c'è l'assegno, C'è il bonifico anche, che è anche più facile secondo me. Grazie Enea. Allora, Presidente Stella, nelle misure attuative che il Ministero dello Sviluppo Economico sta varando rispetto al provvedimento del 2012, si conoscono questi dettagli? Il termine dei limiti, per esempio, come indicato dall'ascoltatore? Diciamo che purtroppo c'è ancora molta confusione, perché il decreto doveva entrare in vigore dal 1 gennaio 2014. Esatto. Ma purtroppo non c'è ancora decreto attuativo, sta lavorando il Ministero dello Sviluppo Economico, poi deve passare anche con la Banca d'Italia. Diciamo che non ci sono, ci sono delle anticipazioni, c'è un decreto che è stato anticipato e che dice quali sono dei limiti. Dice per esempio che dovrà essere per quelli che hanno un fatturato superiore ai 200.000 euro intanto, prima di tutto, e poi c'è una soglia di 30 euro, quindi al di sotto di 30 euro. Qui però è, diciamo che c'è l'obbligo da parte del professionista di accettare pagamenti alternativi al contante. Esattamente. Ecco, senta, quali sono le categorie professionali che, almeno tra quelle che rappresentate, subiranno un po' il provvedimento, quelle che si lamentano di più, che avranno maggiori difficoltà ad adempiere alla novità? Ma diciamo innanzitutto i professionisti che operano con le imprese, perché lì ci sono già altre modalità, come diceva anche lei poc'anzi, di tracciabilità dei pagamenti, quindi si può pagare con bonifico, si può pagare con assegno. L'attività del professionista quindi dovrebbe essere limitato l'applicazione del POS solamente a quelli che operano con consumatori, con utenti, con privati, operati cittadini che pagano in contanti, che quindi per questa ragione dovrebbe essere limitato a questa categoria di soggetti piuttosto che non a quelli che operano con le imprese che hanno altre modalità di pagamento. Senta, adesso non so se voi siete al corrente anche di cosa succederà per altre categorie professionali, ma per esempio idraulici, elettricisti, il meccanico, dove andiamo a fare il controllo dell'olio e magari solamente a sistemare una gomma, un controllino al motore, dovranno tutti dotarsi di POS? La domanda è rivolta a me lo stesso? Sì, certo. Sì, no, diciamo senz'altro di sì, perché l'interesse è quello da parte del governo di estendere l'applicazione dei pagamenti elettronici, che è un po' deficitaria l'Italia rispetto ad altri paesi europei. Quindi in questo modo bisogna che tutti quanti quelli che effettuano pagamenti superiori ai 30 euro possono richiedere di pagare attraverso il POS, e quindi anche queste categorie devono dotarsi di questi strumenti, diciamo. Ne parleremo più avanti, soprattutto per vedere l'idraulico che arriva in casa con il POS. Non vedo l'ora di vedermelo, guarda, questo si li farò arrabbiare. C'è il fascino dell'idraulico so. Che arriva a casa. Attenzione. Grazie Gaetano Stella. Grazie. Buona giornata, presidente. Prego, a presto, buongiorno, salve. Buongiorno. Andrea Maurizio, che ci chiama da Ardea. Dov'è Ardea? Dov'è? Buongiorno. Maurizio. Provincia di Roma. Ah, che ignoranti che siamo. Due capre, posso dirlo? In geografia zero, sotto zero. Maurizio, ci racconti lei. Dunque, volevo sapere se tecnicamente sia possibile, dopo l'estrazione di un molare, inserire successivamente nella stessa seduta un impianto. Si potrebbe, però bisogna vedere la situazione globale, cioè com'è l'osso, in che condizioni fosse il molare estratto, se c'è una parodontopatia in corso con un grande riassorbimento osseo è abbastanza impossibile, improbabile. Logicamente viene sempre richiesta una TAC preventiva per fare un controllo della situazione e sta al dentista valutare. Spesso la prassi ci indica invece di fare l'estrazione, lasciare maturare l'osso e in fase successiva inserire l'impianto. Addirittura se si tratta di un molare superiore e non c'è abbastanza osso, si tendono a fare anche i rialzi del seno mascellare o comunque un aumento di cresta nel caso abbiamo un osso troppo sottile. È molto soggettiva la situazione, quindi non ci sono purtroppo delle regole fisse per tutto. Bisogna che il dentista, con gli strumenti che gli sono forniti, cioè la TAC, la panoramica, la visita odontoiatrica, possa dire al paziente si può fare o non si può fare. Quando abbiamo grossa infezione, nei casi di grosse infezioni non si eseguono impianti post-estrattivi, perché c'è praticamente una probabilità di infettamento troppo alta. Io vorrei tornare dal nostro Nicola Forte per chiedergli, abbiamo parlato di spazzolino, stanno arrivando molte richieste anche sullo spazzolino manuale, elettronico, il colluttorio, quale tipo, la dottoressa Rigoni risponderà tra poco, però in fondo anche l'uso del bancomat negli studi dei professionisti è una forma di prevenzione, no? Per l'evasione fiscale. Come lo vedi? Più come uno spazzolino, come un filo interdentale o come un colluttorio? Sentiamo non lo vedo, nel senso che c'è il rischio che non riesca ad arrivare all'obiettivo, cioè quello di ostacolare l'evasione, perché a mio modo di vedere l'effetto è più un effetto, diciamo, di persuasione, ma è chiaro che l'evasore incallito, colui che appunto intende raggiungere un determinato risultato, non si fa spaventare da questi strumenti. Poi c'è un altro aspetto da considerare che secondo me risulterà decisivo, comprendere nell'ipotesi in cui io dovessi rifiutare un pagamento di un cliente che appunto manifesta la sua volontà di pagare con carta, con bancomat, quali saranno le sanzioni effettivamente irrogabili, perché allo stato attuale se ne parla, ma sulle sanzioni non si sa nulla, se io non prevedo una sanzione specifica. Certo, deterrente ovvio. I topi ballano. Eccola là, quando il gatto non c'è, il gatto befera, chiamiamolo così, Agenzia delle Entrate e Fisco. Oppure andiamo a sentire il nostro GR. Sì, e forse Pietro però in 30 secondi, dai, se ce la fa lo sentiamo. Pietro. Così non le facciamo perdere tempo, dica. Va bene, buongiorno, veloce. Io sono un collega, faccio il dentista, ho 53 anni. Saluto la collega in studio, sì, naturalmente, sì, con la quale concordo su tutto al 100%. Beh, volevo dire una cosa sul POS. Io ce l'ho da parecchi anni. Ah. In questi anni ho visto che le persone che lo richiedono, pur avendo pubblicità sì. sul sito e pubblicità in studio, sono pochissime, forse il 10-15%. Pietro. Grazie al dottor Pietro, e noi andiamo a sentire il giornale radio e poi tutte le vostre telefonate. Andate. Cuore e denari. Che è successo ai tuoi denti? Li ho sbiancati. Davvero? Già, che ne pensate? Penso sia meglio guardarli con gli occhiali scuri. Sono davvero molto, molto, molto bianchi. Già, che cosa non andavano i tuoi denti umani? Forse avrò lasciato il gel un po' più a lungo del tempo prescritto. Quanto di più? Un giorno. E siamo ritornati insieme dopo il GR. Benvenuti, bentornati a Cuore Denari. Sono le 12:10 e sino a termine del programma vogliamo dare spazio ai vostri interventi. Anche di sbiancamento, dottoressa Rigoni. Però prima di sbiancare i denti, lo diciamo sempre, bisogna curarli i denti, perché sì. non basta lucidare. Se il dente è malato oppure è sensibile, cariato, le gengive non sono a posto, è inutile cercare di dare una parvenza di salute con certo. una tecnica sbiancante, magari quelle che compriamo fai da te in farmacia, quelle strisce ad esempio, che vanno sempre comunque usate con attenzione. Cerchiamo di attrezzare. C'è chi poi mi scrive: io uso il bicarbonato per sbiancarmi i denti. Meglio di no. diciamo. No, perché abrasivo il bicarbonato. Noi abbiamo un bicarbonato quando facciamo le ablazioni, le pulizie alla poltrona, che è micronizzato, quindi non è lesivo dello smalto. Quello che viene utilizzato a livello domestico è un bicarbonato che gratta. Quindi mai mettere il bicarbonato sullo spazzolino, perché si crea una microlesione proprio sulla superficie dello smalto. L'acqua ossigenata che usa Alberto? L'acqua ossigenata può essere usata quella 12 volumi che si trova al supermercato, molto molto diluita, per farsi degli sciacqui una o due volte alla settimana, e mantiene i denti un pochino più chiari, leva le macchie, magari un po' del fumo, del caffè. Logico che bisogna stare attenti, perché può essere irritativa l'acqua ossigenata a livello delle mucose, e poi bisogna che il dentista ci dia l'indicazione. Se ci sono delle tasche parodontali, se l'acqua ossigenata si infila nelle tasche, crea effervescenza e ci possono essere poi dei problemi. Stiamo parlando... Sì? Perché ridi? No, non ho bevuto l'acqua ossigenata per sbiancarmi i denti. Sorrido perché pensavo all'ascoltatore di cui mi hai letto il messaggio. Eh sì, esatto, adesso lo vado a ripescare subito. Nella sostanza, questo ascoltatore ricostruisce una situazione che si può verificare fra due fidanzati, quando uno dice non cura in maniera adeguata l'igiene orale all'altra, quindi abbiamo già capito che non la cura l'igiene orale, può addirittura provocare dei mal di gola alla sì. fidanzata. C'è una trasmissione batterica col bacio, con assolutamente il bacio alla francese, come si usa dire, soprattutto all'Hollande. Sì, all'Hollande, che è il grande protagonista sì. dei nostri programmi. A proposito di questo, anche precauzioni con i neonati bambini piccoli. Le zie con l'herpes che ogni tanto si avventano su questi piccoli bambini non devono farlo. È meglio stare lontano finché l'herpes non è passato, perché sennò si può trasmettere l'herpes, e la prima manifestazione herpetica nel bambino può essere devastante, e si hanno quelle situazioni in cui il bambino per 3-4 giorni non riesce neanche a mangiare. Quindi le zie che hanno le bollicine sulle labbra stiano un po' alla larga. Invece per i baciatori che non si lavano bene i denti non va bene, bisogna tenersi ben puliti per non infettare il partner, e soprattutto ricordarsi a casa a tenere gli spazzolini in due bicchieri separati, anche se sei marito e moglie. Non è mica poi carino fare questa osservazione all'altro, quindi dai, facciamoci un esame di coscienza tutti e laviamoci i denti come si deve. Un ascoltatore scrive: sono invece un titolare di una ditta di assistenza caldaie, ritorniamo al tema che abbiamo affrontato nella prima parte, strumenti e apparecchiature per far pagare col bancomat o la carta di credito i nostri clienti per qualunque prestazione professionale. Il titolare di assistenza caldaie dice: da 3 anni ho dotato i miei tecnici di POS, si può fare. Poi magari facciamo commentare a Nicola Forte. Tra un po' l'inchiesta di altro consumo, ma qualche ascoltatore? Andiamo a salutare Simone, che ci chiama dalla provincia di Rimini, e poi subito dopo Luca, che ci chiama da Milano, è più vicino. Simone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Lei tiene lo spazzolino separato? Non ho capito, chiedo lei scusa. Tiene lo spazzolino separato da quello della sua compagna, dei suoi figli? Sì, usiamo due spazzolini elettrici e devo dire che abbiamo trovato notevoli vantaggi, almeno ha la sensazione che ha la lingua sui denti subito dopo la pulizia. E ha fatto bene, perché lo spazzolino elettrico è un aiuto ulteriore. Bisogna imparare anche a usarlo, ma tutti i dentisti ormai si sono orientati verso questo tipo di scelta. Lo spazzolino elettrico rimuove meglio, in maniera più approfondita, la placca batterica. Inoltre ci sono questi nuovi tipi di spazzolino che sono collegati a uno strumentino elettronico, non so se ce l'ha anche lei, che rileva quando il paziente, quando la persona che esercita troppa pressione sulle gengive. Come ha detto prima lei, con baldanza. con baldanza. Troppa baldanza. Ma Simone, lei che cosa voleva chiedere? Infatti. Vada. Sì, due domande. Sì. La prima era relativa a questi spray che vengono venduti adesso di recente nelle farmacie e che promettono una minore insorgenza delle carie dovute ad un riequilibrio del pH subito dopo i pasti. Volevo sapere se sono realmente efficaci. O se vale anche magari masticare un shaving. Sì, è lo stesso tipo di effetto. E la seconda, Simone? E la seconda era così, per darmi una regolata, per capire quale dovrebbe essere il costo onesto, medio, per una otturazione che credo sia uno degli interventi un po' più frequenti, diffusi. Sì. Ecco, allora, grazie Simone. Grazie della domanda, e mi dà anche la possibilità di dare una risposta a questa domanda che purtroppo per il paziente apre un po' un ventaglio di possibilità. Quando andiamo a valutare la possibilità di fare un'otturazione, abbiamo un range di prodotti altissimo. Si può partire da un'amalgama, da un composito di media qualità, un composito di altissima qualità, oppure addirittura in tarsio. Quindi il range di prezzo ovviamente varia moltissimo, perché l'amalgama è un materiale molto popolare e ormai, non dico in disuso completo, però in molti studi non si usa quasi più, e anche nel range dei compositi abbiamo delle differenze di costo. Il nuovo orientamento è sugli intarsi, che si è visto sono in pratica delle otturazioni fatte dall'odontotecnico, cotte dall'odontotecnico ad alta temperatura, che vengono reinserite nel dente e sono già al limite della protesi, per cui i costi aumentano perché in mezzo c'è il lavoro dell'odontotecnico. Quello che è il mio consiglio è di andare dal proprio dentista e farsi spiegare le ragioni per cui certe cose hanno determinati costi. Bisogna pensare che quando il dentista fa un'otturazione utilizza la diga di gomma, c'è un assistente alla poltrona, ci sono dei costi molto alti, anche molto sostenuti, e certo. Quindi al di sotto di certi costi sorgono dei però dubbi. Meglio farla subito, decidere, si fa spiegare dal proprio medico, dal proprio dentista, si può andare da un altro per farsi fare un altro preventivo. Non facciamo però passare troppo tempo. Perché poi dall'otturazione si passa poi alla devitalizzazione, certo. E allora lì il problema è ancora più grave, è più costoso, oneroso. Sì, allora mi ha dato l'assist per affrontare la questione dei costi e dei preventivi, però era rimasta in sospeso la risposta sullo spray, magari sì. Lo spray è l'azione simile a quella della gomma da masticare. Per esempio, le gomme da masticare hanno una buona azione perché l'ossilitolo, che è uno zucchero naturale che viene dalle betulle, ha un'azione protettiva nei confronti proprio della placca, cioè contrasta la formazione di placca batterica. Quindi non sono situazioni risolutive queste, però possono, con una buona igiene orale, ahimè se c'è una predisposizione genetica anche alla carie, perché anche questo conta, è dovuta alla flora batterica particolarmente aggressiva, e si riesce a tenere sotto controllo la situazione in maniera molto molto migliore. 800 24 00 24, continuate a prenotare i vostri interventi, perché come sempre a trasmissione terminata c'è il dietro le quinte di Cuore e Denari, e quindi anche per tutto il pomeriggio e anche nei prossimi giorni, se volete, i nostri ospiti continueranno appunto ad aiutarci a darvi la miglior assistenza sui temi che ponete questa mattina. Non c'è bisogno di dire che quando si parla di dentisti il pensiero, oltre che al mal di denti, l'abbiamo detto per tutta la mattinata, va anche al portafoglio, un motivo per cui, l'abbiamo visto in apertura, sempre più spesso gli italiani stanno alla larga dallo studio taglio dentistico, ma quanto costa in media sedersi sulla temuta poltrona? Altro Consumo ha risposto a questa domanda con un'inchiesta pubblicata la primavera scorsa dal titolo Quanto costa un sorriso sano? La ricerca è stata realizzata mettendo a confronto il costo di 7 prestazioni odontoiatriche tra le più diffuse offerte da 143 dentisti di 6 città italiane: Bari, Bologna, Milano, Napoli, Roma e Torino. Ma ci racconta qualcosa in più Laura Filippucci, esperta in indagini di mercato nel campo della salute, che ha curato per Altro Consumo la ricerca. Dottoressa Filippucci, buongiorno. Buongiorno a voi. Qual è stato l'esito di questo vostro monitoraggio? L'esito è quello che, a cui si accennava prima, una grandissima variabilità, per cui, come giustamente chiedeva l'ascoltatore prima, qual è un prezzo, diciamo, ragionevole, onesto, perché in effetti ci si trova di fronte a preventivi molto diversi e non sempre a fronte di un preventivo alto corrisponde magari un'alta qualità. Come avete fatto voi a dimostrare questo? Perché so che Altro Consumo adotta la strategia di andare a fare delle indagini sul campo. Se si tratta di indagini bancarie, andate direttamente allo sportello, simulate un po' una situazione di richiesta vera da parte di un cliente. Avete fatto lo stesso con i dentisti? No, in questo caso no, perché comunque si tratta di, cioè avremmo dovuto effettivamente farci, diciamo, magari curare un dente, magari poi confrontare, quindi questa cosa non era fattibile. In questo caso abbiamo fatto un'indagine statistica contattando, come si diceva prima, circa 150 studi tradizionali e chiedendo loro appunto il prezzo di questo tipo di prestazioni. Per cui, ad esempio, per rispondere alla domanda, un prezzo, cioè diciamo nel caso dell'otturazione, noi avevamo chiesto l'otturazione di un molare per circoscrivere, diciamo, il tipo di otturazione a due facce, diciamo così, quindi un'otturazione media, definiamola in questo modo, il prezzo può variare da 70 a 270 euro. Quindi questa è una delle anomalie più importanti che avete riscontrato. Devo dire che in quasi tutte le prestazioni vediamo che c'è una forbice di prezzi molto ampia, anche se poi, ad esempio, in questo caso praticamente la metà dei dentisti applica un prezzo tra i 100 e i 130 euro. E in questo modo così abbiamo risposto appunto alla domanda di prima. Il prezzo ragionevole si colloca lì dentro. La città meno cara? La città meno cara è risultata essere Napoli, a cui poi segue Roma, Torino, Bari, e Bologna. Milano, però Bologna ci batte. Certo. Un'ultima cosa, guarda Nicoletta, solo perché ho la ricerca sotto gli occhi, c'è uno specchietto, un piccolo box in cui appunto c'è questa raccomandazione. Occhio agli abusivi, perché qualche volta per risparmiare magari si va così con un passaparola da un presunto professionista del settore, ci fa pagare pochissimo, non facciamo tanto caso, dottoressa Rigoni, magari alla condizione igenica dello studio, e però cosa per noi sono una piaga questo, e devo essere sincera, ce ne sono. Sì, ce ne sono tanti e non vengono denunciati in maniera corretta, perché a volte proprio per risparmiare si va in mano a queste persone che non hanno qualifiche, succede qualcosa, non hanno un ambu, non hanno assistenza. Esatto, diffidate dal diploma che hanno appeso in studio, perché molto spesso a quel diploma non corrisponde una reale iscrizione all'albo professionale. Basta andare all'albo e chiedere se la persona è iscritta all'albo dei dentisti o dei medici dentisti, ed è molto semplice, ci si leva il dubbio nella maniera più lineare e diretta possibile. Salutiamo Laura Filippucci, grazie, buona giornata, grazie molte. Grazie a voi. A presto. Io ho una domanda di Antonio da Brindisi per il nostro Nicola Forte. Buongiorno Antonio, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Ci dica. Io volevo semplicemente segnalare, sono un medico, che questa del pago bancomat mi sembra semplicemente l'ennesimo regalo che fanno i nostri governi a banche e assicurazioni. Vedi che l'avevo detto prima, lei mi conferma, avevo detto Deborah, vedrai che arriverà un sms oppure un ascoltatore ci dirà che va tutto a favore di banche e assicurazioni. Infatti Antonio da Brindisi solleva proprio questo aspetto che io girerei. Ma lei è un professionista, un attimo Antonio, oppure un cliente di notai, commercialisti, dentisti, dermatologi, tutte quelle categorie professionali che vuole? No, io voglio dire questo, io sono un medico. Un secondo solo, che infatti c'è un paziente. Un attimo solo, scendo subito. Le mie parcelle sono oneste, io sono uno specialista, prendo 50 euro per una prestazione di qualità, sono laureato con il massimo dei voti e lode, specializzato allo stesso modo. E allora che cosa voglio dire? Voglio dire che in nome di una finta lotta all'evasione si fa pagare per un costo aggiuntivo ai pazienti. Facciamo un esempio, è ridicolo, è assurdo, è vergognoso che in Italia si metta la maschera a bollo sulla ricevuta sanitaria. Qui un paziente per un importo minimo come il mio di 50 euro si ritrova a non poter detrarre nulla perché c'è la franchigia, a sopportare anche il costo della macchina a bordo come una beffa. E poi è molto semplice, guardate, basta che ognuno di noi nella vita quotidiana, come negli Stati Uniti, possa scaricare le sue spese. Guardi, è il nostro cavallo di battaglia dall'inizio del programma, Antonio, che devo dirle, ha ragione su tutto, però lei dice, però comunque sentiamo furbetto. Nicola? Nicola Forte. Sì, diciamo che ora non entro in merito sul discorso delle banche, che mi rendo ben conto che i sospetti sono quotidiani. Qui il problema va affrontato sotto questo profilo e considerando tre aspetti. Uno, se lo strumento è efficace, e anche io qui ho espresso qualche perplessità, forse in un'ottica di persuasione. Un secondo aspetto, vediamo bene il decreto circa le persone che saranno i professionisti effettivamente obbligati, e qui gli ordini potrebbero eventualmente pensare di sottoscrivere delle convenzioni con l'ABI. Questo mi viene in mente come soluzione per calmierare un po' gli oneri della dotazione della strumentazione, però siamo ancora lontani. Sì, terzo aspetto? Sotto questo profilo. E il terzo aspetto nel frattempo me lo sono dimenticato. Vabbè, lo facciamo riflettere. Vabbè. Anche a me capita, Nicola. Vedi, esatto, parliamo, poi perdiamo il filo del discorso. Ma adesso... E noi vogliamo sentire Luca, che ci chiama da Milano. Buongiorno Luca, benvenuto. Buongiorno a tutti. Io vorrei un consiglio di ordine professionale dalla dottoressa. Mi è stata riscontrata una parodontite di media gravità. Ci sono due possibilità. Il mio dentista mi ha consigliato una pulizia a cielo aperto piuttosto invasiva, ma informandomi ho sentito che alcuni professionisti usano il laser. Il mio dentista, non avendo il laser, me l'ha sconsigliato. Però sinceramente, essendo molto meno invasivo, io sono piuttosto attratto da questa possibilità. Allora, ricordiamo che la parodontite è un'infiammazione patologica del tessuto parodontale, quindi delle gengive in sostanza. Probabilmente avrà anche delle tasche lei parodontali, non piccole. Allora, il laser, che sia neodimio iago oppure diodo, può essere utilizzato e disinfetta, però non toglie le tasche parodontali, quindi il suo dentista comunque le ha dato l'indicazione corretta, perché laddove ci sono le tasche bisogna ridurre questa coperta che ricopre il dente, che è troppo lunga e dentro la quale si vanno ad annidare tutti i batteri. Quindi è vero che il laser viene utilizzato, dà anche buoni risultati, però in tasche che sono più profonde di 4, 5, 6 mm lì è consigliata una chirurgia parodontale. Quindi non è solo perché il suo dentista non ha il laser, nel senso che potrebbe esserci un aiuto aggiuntivo, ma la chirurgia è assolutamente indicata. Andrea da Genova, credo che così a giudicare da quello che vedo è una domanda piuttosto complessa, anche se non sono assolutamente un'esperta. Allora, rapidissima, Andrea, buongiorno. Buongiorno. Sono andato a farmi un esame per fare un impianto di denti, ma col tempo le ossa dove avrei dovuto mettere questi impianti si sono assottigliate. Ecco, Andrea, rapido, può andare in ospedale, voleva chiedere, per fare un intervento come questo? Sì, si può andare in ospedale tranquillamente e lì valuteranno se è nella mandibola oppure nella maxilla che cosa bisogna fare. Non sono sempre interventi semplici, sono interventi a volte complessi che richiedono anche una buona compartecipazione del paziente, perché sono interventi un po' invasivi, è una vera e propria chirurgia. Però se si sente di farlo è bene che lo faccia, perché gli impianti risolvono a moltissime persone la vita. Gianni da Milano voleva proporci di commentare il tema dell'assicurazione medica per coprire queste spese. Ci organizzeremo un'altra puntata, perché no? Grazie a Gianni del suo suggerimento, grazie a Nicola Forte. Grazie Nicola. Ad Alessandra Rigoni, a Filippa Orreggi, a Marco Lombardo, a Laura Vanossi, che più ne ha più ne metta, e a noi non ci ringrazia mai nessuno. Grazie a voi. Grazie. A domani. A domani, buona giornata.